edizione. Le 6, 14 minuti e 30 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Veniamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, non solamente le prime pagine di quelli italiani, come sempre, ma diamo un'occhiata anche a quelli stranieri, particolarmente oggi, come si diceva, perché, come sapete, come vi abbiamo raccontato, il processo per l'omicidio di Meredith Kercher è stato ampiamente seguito dai quotidiani internazionali, in particolare, come ovvio, da quelli americani, visto che la principale imputata, Amanda Knox, è americana, e da quelli inglesi, perché la vittima era proprio britannica. Però iniziamo da quelli italiani, iniziamo dall'apertura del Corriere della Sera. Amanda assolta piange in aula, questo è il titolo, la sentenza d'appello, lei e Raffaele non hanno ucciso Meredith, le notizie le sapete, la foto è quella che troverete su gran parte dei quotidiani ed è una foto appunto di Amanda Knox che piange. I due commenti che troviamo a questa vicenda sono di Fiorenza Sarzanini, più tecnico, le ambiguità di un processo indiziario, e poi un commento invece di Aldo Grasso sulla mediaticità di questo processo, un format più forte della realtà, è il titolo. A centropagina il titolo forte è dedicato alla Fiat che rompe con Confindustria. La Fiat rompe con Confindustria è appunto il titolo. Marchionne accusa passo indietro sulla flessibilità in fabbrica. Titolo dell'editoriale di prima pagina è firmato dal vice direttore del Corriere della Sera, Dario Di Vico. Il titolo è "Una dannosa separazione, le ragioni e gli errori di Fiat". Segnaliamo che il Corriere della Sera presenta anche uno scritto di Giorgio Napolitano dedicato a Mino Martinazzoli, "L'amitezza e i limiti della politica, un esempio", e poi naturalmente un titolo dedicato alla vicenda di Barletta, sulla quale torneremo più tardi, così come torneremo sul processo Meredith. Il Sole 24 Ore, l'apertura è "Confindustria, strappo della Fiat". Marcegaglia: "Rispettiamo ma non condividiamo, le motivazioni non stanno in piedi". Titolo del commento di prima pagina, firma di Alberto Rioli: "Il virus della politica, i tabù da superare rispetto, il tema è l'impresa e il lavoro". Interessante lo spazio dedicato a centropagina alle parole del prossimo governatore della BCE e presidente della e governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che dice: "Funding difficile per le banche, allarme del governatore, problemi di liquidità per il sistema europeo". Ma anche il Sole 24 Ore dedica spazio al processo Knox, di taglio basso, la sentenza di assoluzione. Il titolo del pezzo è "Come è arduo trovare la verità in un processo italiano", a firma di Tim Parks. Segnaliamo che il Sole 24 Ore tra l'altro intervista il segretario NATO Anders Fogh Rasmussen, che dice: "In Libia Italia alleato affidabile". Intervista a firma di Adriana Cerretelli e Beda Romano. L'apertura della Repubblica: "Amanda e Raffaele liberi, non hanno commesso il fatto, fischi e urla in piazza, vergogna". Però un titolo forte dedicato anche alla Fiat: "Fiat abbandona Confindustria, aperte virgolette, fa politica", a firma anche qua di un vice direttore, Massimo Giannini, il commento, l'ultimo strappo di Marchionne. A centropagina, elezioni: "Bossi attacca Maroni, nella Lega troppi parlano a Vandera", e Berlusconi che dice: "Non mi occupo di legge elettorale", e scontro nel PD tra Bersani e Veltroni. Si segnala sul tema Amanda Knox anche i commenti, ad esempio, di Vittorio Zucconi, che dice: "Il tifo", intitolato "Il tifo della platea americana", e anche qua la Aspesi che firma un commento: "La vittima oscurata dallo show". L'apertura della Stampa, il titolo in alto che trovate è dedicato alla vicenda di Barletta: "Si sgretola un palazzo, muoiono quattro donne, la rabbia dei residenti, allarmi ignoranti migliorati. Come sapete, poi purtroppo il conto delle vittime è aumentato e, come vi abbiamo raccontato nel giornale radio delle 6, crolli ripetuti e disastri annunciati è il commento a firma di Mario Tozzi. Grande foto, sempre la stessa a dir la verità, di Amanda Knox che piange, il titolo: Amanda e Raffaele assolti, non uccisero Meredith. E poi medicina Nobel a 3 immunologi, ma uno è morto, come vi abbiamo già raccontato anche nel giornale radio delle 6. In prima pagina anche l'uscita di Della Valle dal patto di sindacato di Mediobanca. E poi un retroscena interessante di Marcello Sorgi: voto anticipato sotto la lente del Quirinale. Il presidente non vuole influire su una chiusura traumatica della legislatura. Tutti, compreso Berlusconi, si stanno attrezzando nel caso si andasse ad elezioni. Fiat, naturalmente c'è un titolo anche su Fiat, dice addio a Confindustria e conferma il piano. Vi segnaliamo, anche perché ne parleremo più avanti, la Torino del calcio e l'orgoglio ritrovato. Bianconeri e Granata in testa in A e B grazie a tenacia e bel gioco, fatto che naturalmente la stampa quotidiana torinese, come ovvio, non poteva ignorare. Veniamo ai quotidiani internazionali, vi diamo qualche segnalazione, in particolare da due giornali, uno americano innanzitutto, il New York Times. Il New York Times dedica un editoriale alla vicenda di Meredith Kercher, un editoriale di Timothy Egan. Il titolo è Justice in Perugia. Innanzitutto vengono fatti, e forse la cosa ci crea un qualche stupore, i complimenti al sistema giudiziario italiano, che dà una seconda opportunità di dimostrare la propria innocenza. La prima frase di questo editoriale si conclude con un bravo for Italy. E poi dice Timothy Egan che da tutto questo c'è molto da imparare. Cita espressamente il caso di Troy Davis, come sapete l'afroamericano che è stato giustiziato nei giorni scorsi negli Stati Uniti, nonostante vi fossero molte testimonianze a sua discolpa o fossero state eliminate molte testimonianze che in realtà lo accusavano. Questo per quanto riguarda il New York Times, al quale ovviamente però non dedica più di tanto spazio a tutto questo. Paradossalmente non sono i quotidiani americani quelli che dedicano più spazio alla vicenda di Meredith Kercher, ma sono quelli inglesi. Ve ne prendiamo uno per tutti, il Telegraph. Nell'edizione online non solo l'apertura è dedicata alla sentenza del processo Kercher, ma ci sono addirittura 5 servizi. Uno, ad esempio, nel quale si dice che raramente un imputato è stato sottoposto ad una character assassination come Amanda Knox, dipinta di volta in volta come una Venere in pelliccia, una dominatrice, una she-devil. Questa è la sostanza di quel che troviamo sul Telegraph, ma ampio spazio viene dedicato, per esempio, anche sul Times a questa vicenda. Il Sun, non vi diciamo naturalmente è quello che ci dedicano i tabloid britannici. Ancora la stessa foto che troviamo anche sui quotidiani italiani di Amanda Knox in lacrime. Il titolo è Cry Freedom, per esempio, per quanto riguarda il Sun. Per passare ad altri argomenti, ma della vicenda, per darvi un'idea, ne parla anche il Wall Street Journal, che parla appunto della vicenda Knox, quantomeno come semplice cronaca, ma c'è anche una galleria di foto, un video, il Wall Street Journal, stiamo dicendo. Però per passare ad altri argomenti, apertura dedicata alla difficoltà dei mercati, tanto per il Wall Street Journal quanto per il Financial Times. In particolare il Financial Times segnala come ancora una volta i problemi d'Europa abbiano colpito i mercati mondiali. Si cita espressamente, come era prevedibile, il caso di Dexia. Che cosa è successo? Ieri sera la banca franco-belga, molto esposto verso la Grecia, ha riunito un consiglio di amministrazione d'urgenza. Si sta facendo strada all'ipotesi di una scissione in due, della creazione di una cosiddetta

Su cosa si sta indagando in queste ore? Adriana, allora, prima gli aggiornamenti. Buongiorno. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Con l'ultima vittima estratta nelle prime ore della notte da sotto le macerie, sono ora in tutto 5 le vittime del crollo avvenuto ieri intorno alle 12.30 in via Roma, in una palazzina di Barletta. Le vittime sono 4 operaie di un maglificio, hanno tra i 30 e i 37 anni, e poi la figlia 14enne dei proprietari dello stesso maglificio. 6 invece i feriti, tra cui 4 donne, 2 sono state estratte vive dalle macerie, una di queste, lo ricordiamo, era il 5° mese di gravidanza, e poi altre persone che erano nella zona al momento del crollo. Il bilancio della tragedia avrebbe potuto essere anche più grave se nell'edificio crollato ci fossero stati tutti i residenti. È una tragedia dai contorni ancora tutti da accertare e già montano le polemiche. Infatti, accanto al palazzo crollato erano in corso alcuni lavori di demolizione di un altro stabile, e l'intervento potrebbe aver appunto causato il crollo strutturale della palazzina. Gli stessi proprietari della palazzina crollata la settimana scorsa avevano chiamato i responsabili del comune per sollecitare i controlli dell'edificio. E ora il procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo, ha aperto un fascicolo per disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, mentre la Guardia di Finanza sta acquisendo tutta la documentazione sullo stabile e il carteggio col comune. Quindi si erano già viste delle crepe in sostanza in questo edificio, da quel che si è appreso? Sì, c'erano dei timori appunto che potesse crollare, e gli stessi proprietari avevano già pensato ad avvisare le autorità competenti, ma a quanto pare questi controlli non sono stati fatti nell'immediatezza, e ora i tecnici dei vigili del fuoco hanno fatto sgomberare per la sicurezza tutte le palazzine adiacenti e hanno fatto staccare il gas per evitare fughe pericolose. Bene, grazie ad Adriana Fracchia per questi aggiornamenti, buona giornata naturalmente, ti ritroveremo nel giornale radio delle 7 appunto per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, su questa tragedia che è una tragedia sul lavoro. Nel frattempo vi aggiorniamo sulle ultime notizie, innanzitutto l'andamento delle borse di questa mattina che non vi abbiamo ancora dato, un calo dell'1,73% in questo momento per l'indice Nikkei a Tokyo, mentre l'Hang Seng ad Hong Kong è in lieve calo, cioè dello 0,01%, rispetto alla performance di ieri era prevedibile perché il calo era stato naturalmente molto pesante. Questo il quadro di giornata. Tra poco vedremo se riusciremo poi a collegarci per la vicenda Meredith. Intanto cambiamo argomento e alleggeriamo un po', parliamo di sport. Parliamo di sport e lo facciamo con Dario Ceccarelli che ci ha raggiunto in studio con questa Torino che, come ci segnala oggi la stampa, va benissimo, il Toro in testa in B, la Juve in testa in A, e questo modello Juve che sembra piacere particolarmente, Dario. Sì, c'è un'atmosfera di tutti pazzi per la Juve dopo anni in cui si è tenuta la cinghia stretta, diciamo la verità, è stati anni di magra per la Juventus. Adesso c'è questa esaltazione giustificata da una bella prestazione contro il Milan di sabato scorso, di domenica, e dove si vede una squadra che soprattutto ha ritrovato l'orgoglio perduto, e questo va dato atto, e di questo va dato atto a Conte, che è, come dire, ha dato quella sferzata di rabbia che all'ambiente di cui l'ambiente juventino aveva bisogno. Tra l'altro c'è da dire una cosa, che molte cose hanno concorso, per esempio il nuovo stadio che così ha dato, come dire, un'anima, un corpo, a un'accoglienza a questa voglia di ritornare ad essere la signora di un tempo. E poi c'è anche questo fatto di giocatori all'altezza, vecchi giocatori come Buffon, a cui è stata ridata l'importanza che avevano, e mi sembra che tutto questo equilibrio funzioni. E poi c'è un vantaggio: la Juventus non è impegnata in Champions, in Coppa, e quindi può concentrare tutte le attenzioni in campionato. Ecco, segnalavo a proposito di bianconero anche l'Udinese, perché è a 11 punti in condivisione con la Juventus, e lì c'è questo Guidolin che è da un bel po' di tempo che continua a inanellare grandi risultati nel silenzio di una città dove, a quanto pare, però le cose funzionano. Le cose funzionano bene. C'è chi ha messo a paragone, Dario, la Juve di questi giorni, con tutte le ovvie differenze naturalmente, con la Roma di Luis Enrique, che piano piano sembra essere riuscito a, se non ad innestare un modello di gioco, quantomeno a dar fiducia ai giocatori. Sì, ci è voluto un po' di tempo, però alla fine si vede che è proprio un progetto che sta maturando. In questo si può dire che c'è una liaison tra Juventus e Roma, che c'è un progetto della società, c'è un'idea, si è convinti su un allenatore e si va avanti senza tentennamenti, che è stato un po' l'incontrario di quello che è successo all'Inter con Gasperini e poi Ranieri. Insomma, un progetto abortito quasi subito, mentre la Roma si vede che con le ovvie difficoltà della partenza, perché era una squadra che insomma è completamente ripartita, non dico riazzerata, però comunque rimessa a nuovo, e si vede che adesso con l'Atalanta, che tra l'altro è una delle squadre che comunque è andata meglio dall'inizio del campionato, si è vista una Roma che ha vinto, ma soprattutto sta mettendo a posto così tutte le quei meccanismi che richiedono un po' di tempo, e quindi in questo vuol dire che la società ha lavorato bene, ha dato fiducia a questo nuovo allenatore e i risultati si vedono. I risultati, insomma, si iniziano a vedere quantomeno anche a Roma, 8 punti più o meno a pari merito con una serie di altre squadre, il tutto associato ad una crisi delle milanesi assolutamente evidente. Sì, la crisi delle milanesi è incredibile, perché pensiamo a una cosa: la Juventus dà 6 giocatori alla nazionale, Milan Inter assieme ne danno 4, 3 del Milan, ma soprattutto sono i punti. Milan e Inter messi assieme non hanno gli stessi punti della Juventus. È una crisi che bisogna andare indietro di 20 anni, perché il Milan ha vinto il titolo, quindi per vedere una squadra che ha 5 punti, la squadra che ha vinto il titolo, credo che bisogna andare indietro di 20-25 anni. E stessa cosa per l'Inter, che così indietro era da decenni che non si vede. E quindi qui queste due milanesi, io credo che ci sia anche un problema di partenza difficile. Ricordiamo che Milan e Inter avevano giocato subito prima del campionato per la Supercoppa, e probabilmente questa partenza non ha condizionato la preparazione anche atletica, e soprattutto non ha dato il tempo di mettere a rodare quei meccanismi che sono importanti per squadre così importanti. Prima edizione. 6:44 minuti e 35 secondi, facciamo dunque un breve approfondimento sulla vicenda Meredith, ascoltando qualche voce dalla serata di ieri. L'ospite che vi abbiamo promesso poco fa è sparita, però insomma andiamo a risentire un po' che cosa è successo nella serata, a partire dalla sentenza. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Perugia assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo E perché il fatto non sussiste. Ordina l'immediata liberazione di Nox Amanda Marie e Sollecito Raffaele, se non detenuti per altra causa. E sentite di sottofondo le lacrime di Amanda, e sentiamo anche l'avvocato Raffaele Sollecito. Giulia, buongiorno. È il verdetto che ci aspettavamo, perché dopo che c'era stata concessa la perizia era risultato assolutamente inconfutabile l'estraneità di Raffaele Sollecito. Certo, se questa perizia fosse stata disposta anni fa, probabilmente non ci sarebbero stati 4 anni di sofferenze e di dolore. In questo momento ovviamente non voglio pensare 4 anni di dolore e sofferenza, e quindi voglio porre l'accento su un risultato estremamente positivo. Una sentenza che ha voluto approfondire, che non si è fermata all'apparenza, che non si è fermata ai cliché, che ha disposto una perizia puntualissima che ha allevato ogni dubbio. E quindi credo che alla luce di questa sentenza possiamo dire che c'è stato davvero in questo caso un pieno assoluto riconoscimento dell'estraneità di Raffaele Sollecito. E anche il padre di Raffaele Sollecito. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia mi ha restituito mio figlio, e ovviamente sono immensamente contento di questa sentenza, perché finalmente è stata fatta luce ed è stato dato fondamento a tutto ciò che noi abbiamo cercato disperatamente di dimostrare durante tutto il processo di primo grado. È evidente che Raffaele non ha nulla a che vedere con la morte di quella povera ragazza, di Meredith Kercher, che rimane comunque nel nostro cuore. Io avrei voluto tanto poter parlare un attimo con i suoi familiari, perché a loro hanno tolto una figlia in una maniera crudele, terribile, però a me oggi, stasera, hanno restituito mio figlio. Questo è il quadro della vicenda di dalla sentenza Meredith, e adesso cambiamo argomento. Cambiamo argomento con il consueto sfoglio e strappo di giornali che sentite di sottofondo, che è la vera musica che annuncia l'ingresso di Alessandro Milan. Ma non strappavo nulla stavolta, sì, giravo solo un po' con delicatezza anche per non disturbare troppo. Tra l'altro poi oggi in 24 mattino ne parlerai parecchio della vicenda Meredith. Sì, oggi ci concentriamo su questo perché è la notizia che è piombata, non è solo una notizia giudiziaria, una notizia che coinvolge anche i rapporti forse tra due paesi, no? Perché poi dai casi giudiziari come questi, per esempio, mi ha molto colpito il fatto che il Dipartimento di Stato americano si sia prodotto in una nota per esprimere soddisfazione per questa sentenza, e quindi dalle 8:20 con ospiti fino alle 9 poi parleremo proprio di questo caso giudiziario clamoroso, no? Sì, altre storie da rassegna stampa, Alessandro? Ma ci sono storie curiose, ci sono le storie più importanti, ovviamente la vicenda di Fiat e Confindustria, le vicende politiche eccetera, anche di cronaca col crollo di Barletta, ma qualche notizia curiosa così per parlare anche d'altro. C'è Vasco Rossi che, con una nemesi anche un po' strana, lui che ha scelto da mesi di comunicare tramite il web, no? Facebook e quant'altro, ha fatto causa a Nonciclopedia o Nonciclopedia, tu come lo pronunci? Nonciclopedia perché... come Wikipedia, sì. Vedi che sei più internazionale, no? Ha fatto causa a questa Nonciclopedia, cioè l'enciclopedia ironica, perché ha detto mi diffamate. E ora l'enciclopedia è stata chiusa per questa iniziativa di Vasco Rossi. Per qualcuno dice: ma come? Proprio tu che hai creduto e credi nel web come mezzo di comunicazione, fai chiudere una non-ciclopedia? Sì, poi Vasco come censuratore, diciamo, già di suo suona abbastanza male. Lui insomma, che nella vita, insomma, ha fatto tante belle cose, ma anche qualcosa magari un po' fuori dalle righe, diciamo così. E poi subito è andato a fare causa tramite i suoi legali. Poi c'è una vicenda che per la verità è finita sul quotidiano nazionale in breve risalto, ma che rischia di creare polemiche, perché è un assessore al comune di Milano, Lucia Castellano, ha incontrato coloro che occupano alcuni edifici e ha detto, e il titolo è questo, assessore shock, occupare non è reato. Cioè occupare una casa, ha detto questo, non è di per sé un reato. E ovviamente questo suscita qualche polemica. Ovviamente. Chiaramente, insomma, non è una di quelle frasi che può passare così inosservata. Vedremo cosa succederà anche da questo lato, sicuramente creerà polemiche nel corso della giornata. E altre storie nella rassegna stampa tra poco, e poi tutta la vicenda Meredith anche in diretta più avanti in 24 mattino con Alessandro Milan. Per prima edizione è tutto, un ringraziamento a Laura Faggini in redazione, Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia e buona giornata.